Ecco qua, come andrà bene? Oh, manda. Sì, noi siamo più di sciallo, una chatta, compresso. Ci ho fatto più belle figure. Beh, dice bene, bene. Candintrasa? Candintrasa? Sì, a posto, non ho problemi. No ma problema già, forse devo introdurre una ditta elettromedicale da travagliare. Allora, bene, stiamo a dirlo. Le amiche la fortuna sulla rado, ti sarà, ti faccio abitato così. Vedo come è. Appena, il capisono un secondo solo, c'è da subito diretto. E quindi trapago che alla fine di una ditta elettromedicale c'è 075 89 87502. Si approva. Hai fai appena che sapete nei verticali qui, no? Appena sto viso ci mi ha dato una cosa a incollare e mi ha rimasto soffrire più per il fatto ma lo fa figure che mi interessa per capire